Rubami le idee stasera, i brutti pensieri, che diventi più bella se sei leggera. Raccontami una cosa scema o i tuoi desideri, metti caso che qualcuno sappia. Non serve che tu sia sincera, dai facciamo i seri, chi non spara cazzate per fare scena. Nascondi il fatto che hai paura, quei modi sicuri, mi piace che fingi di essere dura. Luna piena, birra chiara, parole si perdono in aria. Torno a casa, resto ancora e buttiamo un'altra mezz'ora. Ti conosco a malapena, la mia giacca sulla tua schiena. Non serve dirlo, non prendiamoci sul serio stanotte. Ti lascerei qualcosa di forte se ricordassi come si fa ad aumentare i battiti. Col fiato sospeso per ore, fermo senza parole. Ti lascerei qualcosa di forte, ma stanotte non so come si fa. Domani non rimarrà niente. E continuiamo a trattenerci per non tornare soli. Non c'è altro da dire, rimaniamo in silenzio sotto i lampioni. Un'altra notte in bianco e nero, senza colori, senza rischio di provare emozioni. Occhi stanchi, sguardi persi, e siamo sempre più diversi. Ti distacchi, ci ripensi e provi ad aprire discorsi. Troppo tardi per scoprirsi e smettere di essere altri. Non serve dirlo, non prendiamoci sul serio stanotte. Ti lascerei qualcosa di forte se ricordassi come si fa ad aumentare i battiti. Col fiato sospeso per ore, fermo senza parole. Ti lascerei qualcosa di forte, ma stanotte non so come si fa. Domani non rimarrà niente. Lascerei qualcosa di forte, ma stanotte non so come si fa. Domani non rimarrà niente.